lunghe trecce, fiocchi azzurri e poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, l'arancia ancor più rosse. E la piantina buia dove noi respiravamo piano, e le tue corse, le tue tue no, oh no, mi stai facendo paura. Dove sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna, donna, donna, dimmi cosa vuol dire essere una donna ormai. Ma quante braccia ti hanno stretto, tu lo sai, per diventare quel che sei. Non importa tanto, tu non me lo dirai, purtroppo, ma ti ricordi l'acqua verde e noi, le rocce bianco al fondo. Se me lo chiedi non rispondo. Oh mare nero, mare nero, mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me. Oh mare nero, mare nero, mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me. Poi, i due distesi all'ombra, un fiore in bocca può servire, sai, che allegro tutto sembra. E di improvviso quel silenzio fra noi, e quel tuo sguardo strano, ti cade il fiore dalla bocca. Oh no, ferma, ti prego la mano. Dove sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna, donna, donna, dimmi cosa vuol dire solo una donna ormai. Io non conosco quel sorriso sicuro che hai, non so chi sei, non so più chi sei, non fai paura oramai. Ma ti ricordi le onde grandi e noi, gli spruzzi e le tue risa, cos'è rimasto in fondo agli occhi tuoi, la fiamma è spento e accesa. Oh mare nero, mare nero, mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me. Oh mare nero, mare nero, mare, tu eri chiaro e trasparente come me. Grazie. in un mondo che non ci vuole più. Il mio canto libero sei tu, e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto, e si innalza altissimo e va e vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un merito d'amore, di vero amore, in un mondo che prigioniero è. Respiriamo liberi, io e te, e la verità si offre da noi, e limpida l'immagine, ormai. Nuove sensazioni, giovani emozioni, si esprimono purissime. La veste dei fantasmi del passato, cadendo lascia il quadro immacolato, è stato un mento tiepido d'amore, di vero amore. E riscopro te, dolce compagna che non sai domandare, ma sai che ovunque andrai al fianco tuo mi avrai. Grazie. Bravo, bravo. Allora, intanto era l'inizio di questa serata, e ringrazio Ugo che ha cantato la canzone del sole, il mio canto libero, ha tentato di rompere la chitarra, ma non è riuscito. Forse. Adesso abbiamo altri due pezzi e dopo cominceremo a parlare con Carmine Abate. Allora, Valentina, Fabio e Diego canteranno un altro pezzo di Lucio Battisti, Emozioni, e l'altro protagonista della serata invece è Rino Gaetano, di cui faranno 6 ottavi. Ritrovarsi a volare, estragliarsi felice sopra l'erba da ascoltare, un sottile dispiacere, e di notte passare con lo sguardo la collina per scoprire dove il sole va a dormire. perché quando cade la tristezza in fondo al cuore, come la neve non fa rumore. E guidare come un pazzo a fari spenti nella notte per vedere se vuoi, tanto difficile morire. E stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c'è. Tu non vuoi, tu chiama le emozioni, dove non si vede un passo, per ritrovare se stesso, parlare più del meno con un pescatore, per ore ed ore, per non sentir che dentro qualcosa muore. Ricoprir di terra la piantina verde sperando possa nascere un giorno una rosa rossa. Che quel perverugia non sono le offese, chiudere gli occhi per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c'è. Scendeva stellata stellata, la affusolata nel buio sognava incantata, e chi mi prende la mano stanotte, mio Dio, forse un ragazzo, un uomo, forse io. Lontana la quiete, montagne imbiancate di neve, il vento che soffia, che fischia più forte e più grave, e chi mi sfiora le labbra, chi mi consola, forse un bambino già grande o io da sola. Passava la notte, passava di fretta le ore, la camera fredda già si scaldava d'amore. Chi troverai insegna dal premio del cuore. Chi incontrerai mi insegna da tutto il mio amore. La luce discreta spiava e le ombre inventava. Metti sul mare una luna dipinta danzava. Chi coglierà il mio fiore bagnato di luna? Che luce azzurro o forse la tutta in bambina? Mentre la notte scendeva stellata stellata, ne ha affusolata nel buio, dormiva incantata. Chi mi dirà buonanotte, sarà per Dio? La notte stelle, la luna, forse io. Grazie a Valentina, Fabio e Diego. Allora iniziamo adesso ufficialmente la serata. Come sapete, da un po' di tempo la Biblioteca Provinciale Claudio Augusto organizza ogni lunedì pomeriggio una presentazione. Stasera siamo in esterna, diciamo così, perché è al di fuori dello spazio sia come orario della biblioteca. Do subito la parola alla dottoressa Valeria Trevisan per un saluto. Sono abituata al microfono perché abbiamo una sedia molto piccolina. Vi ringrazio tutti, ringrazio i ragazzi che hanno introdotto questa serata e ringrazio chiaramente Carmine Abate e Giovanni Accard. Leggere è sempre un'emozione, suscita emozione, la comunicazione anche di emozioni e di sentimenti, oltre che di idee. E trovarci qui questa sera è molto importante perché la biblioteca ogni tanto esce. Fa la biblioteca itinerante, deve farsi conoscere, far conoscere soprattutto il patrimonio di libri che possiede. E queste sono occasioni meravigliose per noi per così portare alle persone che forse non ci conoscono ancora una, così dichiariamo anche Carmine Abate ambasciatore della nostra biblioteca, e la conoscenza di una struttura aperta al pubblico che si trova in via Mendola da 5 in attesa della creazione del polo bibliotecario fra qualche anno. La biblioteca organizza, favorisce gli incontri anche con l'autore, questo ne è un esempio stasera qui a Lupag, e spesso appunto volentieri collabora anche con associazioni ed altri uffici, il caso per esempio della felice collaborazione con Bizetta 1999, la scuola di scrittura creativa delle scimmie che è coordinata da Giovanni Accardo. Questa sera ci ha aiutato anche nella realizzazione di questo incontro l'ufficio Servizio Giovani, sito della provincia autonoma di Bolzano. Per la biblioteca Claudio Augusto i giovani sono molto importanti, la lettura va fatta scoprire ancora di più con insistenza e con anche convinzione nel mondo giovanile, e soprattutto noi ci rivolgiamo anche a chi studia, a chi va avanti, a chi prosegue, perché la biblioteca ha istituito da anni un premio per i laureati, per chi così consegue un diploma di laurea e fa una ricerca, una tesi, è invitato ogni anno a presentare il proprio lavoro presso la nostra biblioteca, che verrà poi catalogato, messo a disposizione per non solo la consultazione al pubblico, ma anche può ricevere eventualmente un premio, ecco, quindi questo è un po' un incentivo, un incoraggiamento che diamo ai ragazzi. Io vi ringrazio, vi invito a venirci a trovare, abbiamo lasciato delle locandine e vi auguro una buona serata in compagnia di Carmine Abate. Grazie. Passo il microfono a Claudio Andolfo del Servizio Giovani della Provincia, che appunto insieme a noi ha organizzato questa serata. Buonasera a tutti, io mi scuso per il ritardo, esco ora dall'ufficio per cui mi scuso veramente. E per noi è stato molto bello aderire e partecipare insieme alla biblioteca provinciale a questa iniziativa, perché è interessante, è importante avvicinare i giovani alla lettura. E poi c'è anche un aneddoto particolare, privato per quanto mi riguarda. Carmine Abate e io ci siamo conosciuti anni fa a Monaco quando era ancora tirocinante, per cui insomma per me era ma dico, ma dove l'ho visto? Ma dove l'ho visto? Sei tu. Esatto, esatto. Io dico solo due parole per ringraziare veramente tanto i ragazzi che hanno aderito subito al nostro appello di partecipare a questa serata con dei brani musicali, e quindi grazie di cuore, sono stati moltissimi e in poco tempo siamo riusciti veramente a raccogliere molti gruppi. Un ringraziamento particolare a Diego della Vispa Teresa, che è qui presente in sala, e a Pier del Centro Giovanile Acras, che ci hanno aiutato appunto a lavorare. Bene, e appunto per finire con i saluti, io porto i saluti anche dell'UPAD che ci ospita in quest'aula magna, e che ospita anche la Scuola di Scrittura Creativa Le Scimmie, che è tra gli organizzatori della serata. Una serata che a me fa particolarmente piacere come insegnante, perché mi sembra un'ottima occasione questa di mettere insieme la musica e i libri, non solo per avvicinare i giovani alla lettura, ma perché mi sembra un'esperienza anche da continuare, di dare la possibilità ai tanti giovani che frequentano i centri giovanili e che hanno delle abilità di manifestarle, queste abilità che possono servire anche a loro come incentivo per magari affrontare anche la scuola stessa, dove magari a volte abbiamo studenti che non se la cavano bene con le tematiche della matematica, però hanno delle altre abilità che vanno valorizzate, per cui io, come dire, mi offro per continuare con questa esperienza, che è un'esperienza, mi sembra, particolarmente significativa. Accanto a me naturalmente c'è Carmine Abate, che io ringrazio, e il sesto romanzo, quello che presentiamo stasera, Gli anni veloci, per quanto mi riguarda, se non ricordo male, il quarto che presento qui a Bolzano, ormai una lunga consuetudine, potremmo dire un'amicizia. E questo romanzo in particolare mi fa piacere presentarlo in questo contesto, cioè all'interno di una struttura di educazione permanente con la biblioteca, cioè la lettura, i centri giovanili, perché secondo me è un romanzo dal forte impianto pedagogico, è un romanzo che invita i giovani a sognare, ad avere degli obiettivi, a credere in qualcosa e ad impegnarsi per questo qualcosa. Non c'è solo il Grande Fratello dove basta andare lì a litigare o a togliersi le mutande, no? Ma per fortuna c'è ben altro, e forse è su quell'altro che i giovani devono puntare per costruire il loro futuro. Vorrei dire qualcosa su questo romanzo. Carmine mi ha già detto non svelare il finale, io non lo svelerò. lo posso rassicurare. E quindi non vi svelerò il finale. Ringrazio gli amici della libreria Mardi Gras che hanno portato alcune copie degli anni veloci, che naturalmente potete acquistare, Carmine volentieri vi farà un autografo. Ci sono anche copie dei suoi precedenti libri ormai nelle edizioni degli Oscar, quindi ormai dei classici. Ecco, dirò qualcosa su questo romanzo e poi faremo una conversazione con Carmine Abate, e poi naturalmente ci sarà ancora la musica. Saluto anche un gruppo di miei studenti che mi segue in queste iniziative e ne sono doppiamente contento. Ecco, se c'è una cosa che secondo me caratterizza la letteratura di Carmine Abate è il calore dei luoghi, dei personaggi, delle relazioni, della lingua. Una lingua fortemente espressiva e capace essa stessa di raccontare una storia, per esempio quella della comunità arberescia a cui Carmine Abate appartiene. Una lingua non soltanto comunicativa, ma anche e soprattutto emotiva, una lingua degli affetti. E accanto al calore, l'altro elemento che mi pare connoti felicemente la narrativa di Carmine Abate sono i colori, spesso quelli dell'estate, della campagna e del mare di Calabria, come in gran parte di questo romanzo. I colori, cioè, di una natura rigogliosa e sensuale, di cui la scrittura ci fa percepire i profumi aspri e selvatici, assieme ai sapori dei cibi, anch'essi capaci di raccontare una storia, la storia di un luogo, la storia di un popolo, di una tradizione. E il cibo, vorrei dire, nei libri di Carmine Abate non è una cosa secondaria, non è un contorno, ma il cibo è affetto, è relazione, è sentimento, soprattutto al sud, come accade in quest'ultimo romanzo, Gli anni veloci, un romanzo calabrese e profondamente mediterraneo, ma anche italiano, perché in questo romanzo Carmine Abate racconta una parte della nostra storia recente. In tutti i romanzi di Carmine Abate c'è sempre una storia d'amore tra due adolescenti che comincia durante l'adolescenza, e negli anni veloci la storia d'amore è quella tra Nicola e Anna, e attraversa tutto il romanzo sullo sfondo di una Calabria allegra e generosa, costretta tuttavia a fare i conti con una industrializzazione sbagliata come quella di Crotone, dove è ambientato gran parte del romanzo, e costretta a fare i conti con l'emigrazione. Anna ha un sogno: scrivere canzoni per Lucio Battisti, ed ecco perché questa sera ci sono le canzoni di Lucio Battisti, a cui indirizza intanto delle lettere lunghe e appassionate. Anche Nicola ha un sogno: diventare un grande campione come Pietro Mennea. Ma c'è un altro personaggio famoso che sarà uno dei protagonisti del romanzo, ed è Rino Gaetano, di cui Carmine Abate recupera l'origine crotonese e di cui narra l'intera parabola esistenziale, una vita che si incrocia con quella di Anna e Nicola, di Mario e Capocolò, un misterioso e taciturno pescatore. E direi che Gli anni veloci è uno dei romanzi più riusciti di Carmine Abate, dove la maturità stilistica e linguistica, un riuscito impasto di italiano e dialetto calabrese, segna una tappa ulteriore nel cammino di uno scrittore giustamente letto, tradotto e premiato. Un romanzo ricco di personaggi e di avvenimenti, interamente, come dicevo prima, calati nella storia italiana in quegli anni veloci, ricchi di sogni e di speranze, ma anche di conflittualità e di violenza, che dagli anni 70 portano direttamente alla fine del millennio. Questo romanzo inizia con una frase fulminante, di cui subito chiederò conto all'autore. La frase fulminante è questa: che la vita comunque è bella, ecco che cosa non devi scordare mai. A te la parola. Sì, intanto anch'io adesso, prima di rispondere a questa domanda, vorrei fare una serie di ringraziamenti per tutti gli organizzatori, quindi vi metto tutti assieme, se no ci impiego anch'io tantissimo tempo. Ringrazio tutti gli organizzatori per questa bellissima serata, bellissima, comunque diversa dalle solite presentazioni del libro, per niente noiosa almeno fino adesso, e cercheremo di restare su questa linea fino alla fine. E questa frase, che la vita è comunque bella, ecco cosa non devi mai scordare, è messa lì all'inizio del libro, e poi c'è uno stacco e comincia la storia, a un certo punto comincia la storia. È una frase semplice, forse persino banale sotto certi aspetti, ma forse sotto sotto è anche molto profondo, una frase, un monito, un motto che spesso ci dimentichiamo, no? Ci dimentichiamo questa verità così semplice, e cioè che la vita è bella. Allora, messa all'inizio della storia, in qualche modo riecheggia dalla prima all'ultima pagina, perché questo è soprattutto un romanzo sulla bellezza della vita, e racconta una storia d'amore, e l'amore è la cosa forse più bella della vita, no? Anzi, forse senza il forse. E quindi è una frase che può essere, io non dico chi la pronuncia all'inizio, resta misteriosa, ma probabilmente è il motto dei due protagonisti, di questi due giovani, di Nicola e Anna, che proprio perché si amano così tanto, colgono la bellezza della vita. E forse è anche il motto di Capocolò, questo personaggio di cui spero, e poi parleremo, un personaggio misterioso, che solo a un certo punto del libro, verso metà del libro, si scopre da dove viene e cosa ci fa Crotone. E potrebbe averla detta anche lui, perché lui ha capito perfettamente che la vita è bella, almeno verso la fine del libro. Quindi questa frase è messa lì quasi per continuare a echeggiare nella mente del lettore per tutte le pagine, fino alla fine, che non no, assolutamente. Vediamo, funziona anche questo, no? Sì. Funziona? Sì. Allora, così evitiamo di passarci il microfono. Dicevo prima, forse spendiamo due parole sulla tua origine, Arbëresh. Vuoi dire qualcosa tu? Sì, no, lo sanno tutti. Beh, Io mi auguro che ci siano, che non siano i soliti lettori di sempre, ma ce ne siano di nuovi che non sanno. Sì, assolutamente, no, scherzavo. Io appartengo a una minoranza etnico-linguistica che tra l'altro come numero di parlanti è la seconda dopo quella tedesca, come numero, perché siamo 100.000. Ah no, però, momento, adesso sono state considerate minoranza anche il sardo e il friulan, quindi effettivamente non siamo più al secondo posto, però una grande minoranza, sembra 100.000 che vivono in tutte e sette le regioni meridionali, più oltre 100.000 che vivono invece al nord Italia ed Europa. Io vengo da un paese che è stato fondato più di 5 secoli fa, alla fine del 400, dai profughi che scappavano dai Balcani, dall'occupazione ottomana. E come gli albanesi di oggi, naturalmente, sono venuti nel posto più vicino, anche più accogliente, almeno in quel periodo, e hanno fondato 100 comunità. Di queste 100, in 50 ancora si parla l'arbresh, cioè l'albanese antico. E la cosa ha una grande importanza ovviamente per la mia scrittura, perché io fino a 6 anni parlavo solo l'arbresh, l'italiano l'ho imparato a scuola, e quindi diciamo che sono cresciuto come un bambino straniero, no? Che viene in Italia, non sa una parola e poi è costretto a imparare. E ho raccontato nei miei libri questa storia, anche il primo giorno di scuola, quando per me davvero, intanto ero convinto di dover imparare il napoletano, no? Come dico, perché sentivo solo, oltre all'arbresh, sentivo cantare il napoletano e sentivo i vari commercianti che arrivavano in paese, erano tutti napoletani. E invece poi sono stato costretto, come tutti gli arbresh, a essere scolarizzato in italiano. Nessuno mi ha mai insegnato a leggere, a scrivere l'arbresh, e io ero convinto, tra l'altro, fino a 14-15 anni che non si potesse scrivere. Pensate, una lingua ricchissima di fonemi. Se io dico Gyuha, Gishpora, cioè questi sono suoni che in italiano non si possono scrivere, ci vogliono delle lettere particolari. Tant'è che l'albanese, anche l'albanese dell'Albania, ha 36 lettere, mentre l'alfabeto italiano ne ha 21, quello originale senza la X, la Y. E quindi io ho continuato a parlare quella che noi chiamiamo Gyuha Izomes, la lingua del cuore, a casa, con gli amici, nei vicoli, e a scuola ho imparato una lingua altrettanto importante, l'italiano, Gyuha Bukes, la lingua del pane. C'è qualche albanese? Nemmeno uno, mi hanno tradito. Tutti gli amici albanesi, vabbè. E la lingua del pane, poi l'ho imparata a scuola e mi ha dato il pane, per questo si chiama lingua del pane. Come ha dato il pane a mio nonno, che è stato immigrato in America, come ha dato il pane, il tedesco, a mio padre, che è stato immigrato per più di 27 anni in Germania. E quindi quando ho cominciato a scrivere, ho dovuto per forza di cose scrivere in italiano, in questa lingua a distanza, diciamo, perché l'arbresh nemmeno lo conoscevo, non ero in grado allora di scriverlo. E quindi ho raccontato anche le storie arbresh, storie davvero affascinanti, perché immaginatevi un popolo che si sposta da un posto lontano e va a rifondare. Perché questa è una parola bellissima che a me piace, rifondare, no? Gli stessi paesi altrove, c'è la ricostruzione, quindi è proprio un sostantivo positivo questo, no? Ricostruire altrove, e quindi ho raccontato queste storie, per esempio nel mosaico del Tempo Grande, racconto dell'arrivo degli arbresh dal 400 ai giorni nostri. E in alcuni romanzi invece non ne parlo proprio, quindi non ci sono parole arbresh, non parlo di questa tematica, e semplicemente perché la storia è ambientata in un posto diverso, no? Ecco, in questo romanzo, appunto, un romanzo, come dicevo prima, soprattutto calabrese, e volevo chiederti che Calabria ci racconti, citando una frase che dà un giudizio, no, su questa terra. Dice: questa terra è spinosa come un cardo dal fiore sgargiante, ti può pungere a sangue ma ha un sapore unico nelle venature più profonde. Che terra è questa Calabria? È la nostra. Allora, che Calabria racconto? Dico subito, racconto una Calabria complessa, cioè una Calabria che appunto come un cardo, che ha un fiore bellissimo, vedete, in primavera i cardi nostri, e però ti può pungere perché poi le foglie sono piene di spine, e addirittura però se hai la pazienza con un coltellino, come facevamo da bambini, di pulire tutte le spine, ha un sapore eccezionale, in molti posti d'Italia, del resto si mangia, si usa il cardo nella cucina, quindi proprio nel profondo ha un sapore eccezionale, così come la Calabria nel profondo, come tutto il sud, nel profondo ha questo sapore eccezionale. E allora che Calabria racconto? Racconto la Calabria complessa, e non la Calabria di cui si parla, l'unica Calabria di cui si parla al di fuori della Calabria, no? Che è quella dell'Andrangheta. La Calabria è nota fuori dalla Calabria, e se ci fate caso, no? Quando è che si parla della Calabria? Si parla quando ci sono le frane e quando ci sono episodi mafiosi. Quando l'anno scorso a Duisburg è arrivata l'Andrangheta calabrese, se ne è parlato per mesi e mesi. Ora, io non voglio negare che non esista l'Andrangheta, c'è un mio libro, Tra due mari, in cui io parlo proprio, uno dei temi è proprio questa piovra, no? Che attanaglia proprio la Calabria, e racconto anche lì, quindi non nascondo il problema. E allora io non voglio assolutamente dire che è sbagliato raccontare quella Calabria, dico solo che forse uno scrittore deve raccontare tutta una realtà, non deve avere paura della complessità. E quindi quando poi racconti la Calabria così com'è, nella sua complessità, si sorprendono anche gli stessi calabresi, e si sorprendono perché si vedono delle descrizioni bellissime di certi luoghi. Per esempio, io parlo, ambiento un romanzo a Crotone. A Crotone ci sono dei luoghi, non so chi di voi c'è stato a Crotone. C'è un luogo, si chiama Capocolonna, che è uno dei luoghi principali del romanzo, Capocolonna, ed è un promontorio sul mare con un'unica colonna dorica che è rimasta, di 48 colonne di un tempio che era il più grande della Magna Grecia, il tempio di Era Lacinia. C'è questa cosa, cioè, voglio dire, se fossero rimaste 10 colonne, a me forse non avrebbe mai affascinato con l'unica colonna che davvero è misteriosa, è immediatamente simbolica, metaforica, è una metafora anche di questa terra che resiste, malgrado siano passati tanti secoli, terremoti, no? I terremoti, l'Andrangheta, l'emigrazione e tutto il resto, che resiste, questa colonna solitaria resiste. Allora quando tu poi la descrivi così com'è, quasi fotografandola, e però cercando di tirar fuori la poesia che c'è in quel luogo, appunto gli stessi calabresi che magari la vedono ogni mattina passandoci con la macchina vicino, dicono: ah, ma c'è questo luogo bellissimo allora da noi. Ecco, questo vuol dire raccontare la complessità, cioè raccontare gli aspetti positivi e gli aspetti negativi di una terra, e quindi non star lì e a tavolino dirsi: beh, siccome adesso vanno quasi di moda le gomorre, no? E allora io scrivo un bel romanzo sull'Andrangheta calabrese e faccio successo. Questo non è giusto nei confronti di una terra, nei confronti di una gente, no? di quella gente che invece vive la complessità e la bellezza della vita come dappertutto in Italia. Leggo un altro pezzetto. Nei giorni di vento la Montecatini sputava le sue sbrodate di fumo puzzolente nei quartieri vicini come il Fondo Gesù, e quando soffiava la tramontana l'odore di acido solforico si sentiva addirittura in piazza Pitagora. Ribadiva a chi si turava il naso o pensava di non c'entrare niente con essa, la sua presenza ingombrante nel bene e nel male. Soprattutto nel bene, diceva Ernesto, perché senza la Zà Montecatini chi ci darebbe da mangiare? Allora, un altro dei protagonisti del romanzo è la Montecatini, questa industrializzazione forzata del sud, che alla fine doveva essere un bene per il sud, così per la Calabria come per la Sicilia, il petrolchimico di Gela e altro, invece ha rovinato soprattutto. Però ecco, nel tuo romanzo la Montecatini è vista in questa doppia prospettiva. Per qualcuno è una presenza negativa perché è l'inquinamento, ma qualcun altro dice: io devo ringraziare la Montecatini perché ci dà da mangiare. E a questa cosa volevo aggiungere un'altra domanda. Tu ambienti gran parte del romanzo negli anni 70, e però negli anni 70, gli anni appunto delle manifestazioni politiche, del terrorismo, del conflitto politico e sociale molto aspro, e tu in quegli stessi anni invece racconti un'altra dimensione, anche se questa compare naturalmente, però un po' più sullo sfondo. Racconti soprattutto, appunto, come dice il motto che hai messo all'inizio, un'altra prospettiva delle relazioni umane, della vita, dell'Italia. Ecco, volevo chiederti sì. Queste due cose. Adesso mi hai chiesto, ho fatto due o tre domande, se risponde a tutte. E dopo andiamo a dormire. No, cominciamo da quest'ultima, perché... intanto è davvero la domanda chiave che molti mi fanno, perché ho deciso di non raccontare, per esempio, in questo libro il terrorismo, visto che parto dagli anni 70, ci sono tutti gli anni 70, poi si arriva alla fine del secolo proprio, no? Poi con la morte di Lucio Battisti. Anche lì, intanto premetto questo, che io non... Quando comincio a scrivere un libro, questo l'ho detto altre volte, ma insomma spero che non vi ricorderete, che quando comincio a scrivere un libro non so mai che libro scrivere, no? Parto sempre da un'immagine che addirittura mi ossessiona per un lungo tempo, un'immagine chiara, un fotogramma di un film, proprio così, più che una fotografia, proprio perché si vede, è un'immagine in movimento, quella che ho sempre presente. Ecco, in questo libro, e adesso arrivo alla risposta, no? L'ho presa un po' da lontano così, e in questo libro l'immagine iniziale mi è nata il giorno della morte di Lucio Battisti, così spieghiamo cosa c'entravano tutte quelle bellissime canzoni di Lucio Battisti che abbiamo sentito prima. Era il 98, un giorno, il 9 settembre, il giorno in cui è uscito il mio libro, 9 settembre, però 10 anni dopo, e io ero in macchina, ho sentito la radio. Intanto prima ho sentito tante canzoni di Lucio Battisti, stavo scendendo giù, stavo andando in Calabria, e sentivo che cambiavo canale, come si dice, frequenza, e c'era Battisti. Cambiavo dopo un po', alla fine della canzone di Battisti, e c'era di nuovo sempre Battisti. A un certo punto sento la notizia che è morto Lucio Battisti. Allora ho accostato, ero in autostrada, e davvero ho sentito quello che sente il protagonista Nicola quando appunto ascolta la radio questa notizia. Ho sentito un dolore come per la morte di un amico, di un parente, perché per quelli della mia generazione, e sono contento che è più o meno così anche per i giovani di oggi, Lucio Battisti rappresentava l'altra faccia della nostra educazione sentimentale. Guardate, vi parla così uno a cui piaceva anche molto Guccini, De Gregori, De André, cioè non è che ascoltassi solo Battisti, però Lucio Battisti rappresentava l'altra parte di questa educazione sentimentale, no? Quindi anche attraverso, poi raccontava delle storie, Mogol che gliele raccontava, ma senza la sua voce queste storie non sarebbero state credibili, ed erano storie in cui era difficile non ritrovarsi, soprattutto per un ragazzo del sud come ero io, insomma, all'epoca. E allora quel giorno, quando ho sentito che era morto Lucio Battisti, mi è venuta a galla davvero tutta intera questa immagine dell'adolescenza che io avevo trascorso a Crotone. Quindi ho recuperato un periodo che non avevo mai narrato e soprattutto mi ha consentito poi, anche attraverso questo escamotage, delle lettere che Anna scrive a Lucio Battisti, di riproporre la voce di Battisti, quello che rappresentava Lucio Battisti e le sue canzoni. E quindi è uscita fuori questa immagine che poi ho continuato, perché un'immagine no, tira l'altra, e a un certo punto, siccome il romanzo era ambientato a Crotone, negli anni 70, cominciava Crotone, all'improvviso è entrato di prepotenza nella storia di questi due giovani Rino Gaetano. È stata Rino Gaetano nel romanzo un personaggio vero e proprio, mentre Battisti è un personaggio mitico, no? Compare solo in due occasioni, diciamo, in carne ed ossa, in una. E invece Rino Gaetano compare continuamente, è un personaggio amico del fratello di Nicola, Mario, che è un tipico personaggio dell'epoca, molto politicizzato, un leader delle occupazioni studentesche, poi sindacalista, proprio alla Montecatini. E quindi riesco a seguire attraverso questa presenza di Rino Gaetano tutta la sua vita, tutta la sua parabola, dall'inizio, quando non aveva per niente successo, fino al Festival di Sanremo. Rino Gaetano, per chi non lo conoscesse, è l'autore di Gianna Gianna e Ma il cielo sempre più blu e di canzoni bellissime che però non sono molto note. Le canzoni più belle di Rino Gaetano sono quelle come quella che hanno cantato prima loro, che è una canzone bellissima ma non è molto nota. E allora Rino Gaetano l'ho recuperato alla sua città, a Crotone, perché anche recentemente avete visto c'è stata una fiction su Rino Gaetano. E in quella fiction, per esempio, non si parlava per niente del Rino Gaetano calabrese. Pareva che fosse nato, cresciuto e pasciuto a Roma, e addirittura la madre parlava in siciliano, il padre era cattivo come i padri nostri. Però parlava, non lo so, romanesco, non so come parlava questo padre. E insomma, invece Rino Gaetano amava molto, aveva un rapporto in cui io mi ritrovo, perché io ho un rapporto simile con la mia terra, un rapporto passionale, quindi non un rapporto di odio e amore, banalmente, odio e amore, odiamo e amiamo la nostra terra, ma un rapporto passionale, che è una cosa diversa, una cosa forse più profonda. Tant'è che tornava spessissimo, quando non aveva soldi, addirittura in autostop da Roma, fotografava, amava molto Capocolonna, quel luogo di cui vi parlavo prima, fotografava molte pezzettini di mare, spiagge, cioè quello che lo affascinava, lo fotografava e poi lo trasportava nelle sue canzoni, perché le sue canzoni, soprattutto quelle dove il protagonista è il mare o il sud, ad esempio A me piace il sud, una canzone di Rino Gaetano molto bella, e si ritrovano tutte queste immagini della sua terra. Ecco, e naturalmente parlando di Crotone, non potevo ignorare la Montecatini. Allora, la Montecatini era una delle due uniche fabbriche che c'erano in Calabria fino agli anni 70. L'altra era la Pertusola, che era proprio vicinissima alla Montecatini, sempre a Crotone. Quindi Crotone, questo non si sa, nessuno lo sa, fuori di Crotone, Crotone era l'unica cittadina industrializzata della Calabria, con tutto quello che comporta l'industrializzazione. Quindi c'era una classe operaia, c'erano le lotte, la chiamavano la Stalingrado del Sud, tanto che sono loro che hanno fatto le battaglie contro le gabbie salariali, per esempio, e quindi contadini che si sono trasformati, contadini della zona, che si sono trasformati in operai. Molti di questi operai venivano da altre città della Calabria, per esempio da Lamezia, Terme, da Reggio Calabria, e siccome non c'erano abitazioni all'epoca, perché la Montecatini è nata alla fine degli anni 20, andavano sulla spiaggia, facevano delle baracche, e quindi lungo la spiaggia si era formato quella che chiamavano Shanghai, una sorta di ghetto operaio, dove gli operai, insomma, vivevano alla meno peggio. Quindi tutti questi sacrifici, cioè, è come se a un certo punto mi fosse venuto anche incontro tutta questa sofferenza degli operai, e quindi io dovevo per forza narrare questo. Per questo prima parlavo di complessità. Allora, questo è un romanzo che comincia che la vita è comunque bella, racconta una storia d'amore con molte scene sensuali, per non dire qualcosa di più, e però c'è anche l'industrializzazione, c'è anche la sofferenza della classe operaia, le sconfitte, perché questa è un'industrializzazione fallita. E nel 93 a Crotone ci sarà il cosiddetto settembre dei fuochi, quando un governo, tra l'altro di centro-sinistra se non mi sbaglio allora, decise, perché intanto la Montegatini era diventata Montedison, Enichem, eccetera, eccetera, statale, no? Partecipazioni statali, eccetera, decise di chiudere questa fabbrica con la promessa di riaprire altre fabbriche. Una cosa l'hanno fatta, come avevano detto, hanno chiuso la fabbrica. Altre fabbriche non sono state aperte. E quindi la gente ha ripreso ad emigrare. Per cui, per chi lavorava, è chiaro che, anche se c'era l'inquinamento, chi ci lavorava dentro, e magari lavorava a contatto con, come si dice, con quella cosa che procura l'asbestosi, con l'amianto, a loro interessava poco, cioè cercavano di fare lotte per avere condizioni migliori, però quello che interessava, quello che interessa un uomo di un posto è trovare lavoro in quel posto, vivere lì, non essere costretti a partire. Ecco, alla fine, adesso se passate da Crotone, vedete queste due fabbriche dismesse, la Pertusola e la Montegatini, enormi, sotto il sole che si stanno arrugginendo, e dietro di loro c'è un mare bellissimo. Senti Carmine, hai parlato di Rino Gaetano, a questo punto io ti proporrei di leggerci un pezzo, perché appunto Rino Gaetano a mio parere è uno dei personaggi più emozionanti del romanzo, perché era difficile naturalmente incastrare un personaggio famoso in una finzione narrativa, secondo me tu ci sei riuscito benissimo, è un personaggio molto credibile, è un personaggio vero, e ti propongo di leggere, poi ascoltiamo, hai citato Gianna e il cielo è sempre più blu, e allora Daniel e Diego, dopo che lui ha letto, ce le faranno sentire. Sì. No, vuoi leggere qua? Questo? Sì, leggo qua. Però si sente di meno, così, eh? Sì. Allora quello. Pronto? Sì. No, allora vi leggo un brano dove c'è Rino Gaetano, e poi sentiamo anche la canzone, ma c'è anche Capocolò, di cui poi vorrei parlare, perché il personaggio, anche gli scrittori si affezionano a un loro personaggio, io sono molto legato a questo Capocolò, e poi vi dirò perché. Quindi è Una notte sul mare che vi racconto. Ti faccio sì, grazie, sì. E due pagine, abbiate pazienza. Quella notte Nicola, il protagonista del libro, fu svegliato dalla voce di Capocolò. «Vieni!» Si alzò dal letto sbadigliando e andò al bagno. Era sudato. Appena si sciacquò la faccia, si rese conto che Mario, il fratello, non era ancora rientrato. Al porto, l'aria era umida e appiccicosa, per giunta brulicante di zanzare avide di sangue. Vide Rino Gaetano e Mario sotto un lampione che fumavano, e davano schiaffi all'aria per tenere lontani gli insetti. Ma al largo, di fronte a Capocolonna, una brezza provvidenziale rinfrescava la notte. Capocolò aveva spento prima il motore, poi la lampara, ed era stato come se avesse acceso l'interruttore del cielo. Milioni di stelle si erano illuminate tutte insieme all'improvviso. Nessuno parlava, si sentiva solo il fruscio del mare che accarezzava la barca. Poi Rino Gaetano sussurrò un pensiero a bassa voce. «Che pace!» disse. me l'ero dimenticata questa pace. E aggiunse che da bambino, quando usciva in barca con i suoi due cugini, provava lo stesso sentimento di pace interiore, un benessere che gli azzerava le paure e le timidezze. Confessò che era stato ed era timido e sognatore. E lì, nel buio liquido sul mare, da bambino esorcizzava la paura più grande, quella della morte. Stava con gli occhi puntati verso la linea invisibile dell'orizzonte, in attesa che il sole sorgesse e illuminasse l'oscurità della notte. Gli sembrava di rinascere ogni volta, mentre fissava per sempre quei paesaggi vergini sotto la prima luce dell'alba, e faceva una scorpacciata di immagini salutari, come se intuisse che presto non le avrebbe più riviste. Rino è un vero poeta, intervenne Mario con una voce innamorata, e per dimostrarlo si mise a canticchiare una canzone del suo amico. Ad esempio, a me piace la strada, con verde bruciato, magari sul tardi, macchie più scure, senza rugiada, coi picchi d'India e le spine dei cardi. E Nicola lo accompagnò con il ritornello. Ma come pare, non so, sì, devo dirlo, ma chi, se mai qualcuno capirà, sarà senz'altro un'altra come te. Rino era contento che i due fratelli conoscessero a memoria la sua canzone. Nello stesso tempo pareva imbarazzato come Carmine Abate, non c'è, e cominciò a scherzare. Zitti, spaventati, i pesci che dormono, e quest'uomo misterioso che tutti chiamiamo Capocolò, ma chissà come si chiama veramente, e chissà da dove viene. Capocolò sorrise. Rino se ne accorse, gli offrì una sigaretta e ne accese una anche per sé. Così tornò il silenzio assoluto, più che la pace, e all'improvviso l'orizzonte divenne una linea di luce rossa. E poco dopo, sorprendendo i tre giovani, Capocolò si mise a raccontare senza preamboli la sua vita, anzi la sua prima vita, disse, che a volte gli sembrava quella di un altro. Il suo nome? Marco Floriani, perito chimico fresco di diploma, che la Montecatini aveva assunto e inviato per 6 mesi a farsi le ossa allo stabilimento di Crotone. Da dove veniva? Da Ferrara. Era distrutto dal lungo viaggio, ma quando scese alla stazione, squallida come quella di adesso, e si incamminò verso la città, provò una sensazione di inspiegabile benessere. Il profumo del mare gli veniva incontro, i rigogliosi fiori gialli ai bordi della strada gli davano il benvenuto. Fu un'attrazione a prima vista. E la realtà drammatica di quegli anni, la povertà, la criminalità, le baracche degli operai in fila lungo il mare fino al cimitero e le urla senza speranza dei contadini della zona, non l'avrebbero mai scalpita. Un'attrazione è irrazionale, non ci puoi fare niente. Succede la stessa cosa con l'amore. Successe anche a lui, pochi giorni dopo il suo arrivo. E fu come se gli occhi di Gemma, che incrociò all'uscita della cattedrale, lo stessero aspettando da sempre, proprio lì, in quel punto, sul penultimo gradino della scalinata. Lui le sorrise, si tolse il cappello e le sorrise. Gli occhi di Gemma gli risposero luccicando. C'era un'ansia nel sorriso battato di lei, un'attesa di anni che terminava in quel momento. Lui si informò su di lei e seppe che era una maestra, per fortuna nubile. Anzi, gli dissero che era una signorina con la puzza sotto il naso, che rifiutava tutti i pretendenti, anche i più facoltosi, persino il figlio di un barone. Lui non ci mise molto a conquistarla, non ce ne fu bisogno, lei l'aspettava. Accettò le rose bianche come un pegno d'amore, le lasciò essiccare e le appese sul muro della sua stanza accanto al crocifisso. Si fidanzarono ufficialmente, come richiedevano i tempi e il rituale, ma a lui non pesava, anzi, grazie alla forma, fu salva anche la sostanza. Si vedevano ogni giorno, prima davanti ai genitori di lei e poi da soli, di nascosto, nella stanza delle rose. Il lavoro alla Montecatini non piaceva a Capocolò. A dirla tutta, non gli piaceva l'intero stabilimento e nemmeno l'altra grande fabbrica della Pertusola che sbuffava a fianco. gli sembravano due escrescenze mostruose in un paesaggio stupendo. Sì, aveva ragione Rino sulle spine dei canti. La bellezza e i dolori. Questa terra è spinosa come un cardo dal fiore sgargiante. Ti può pungere a sangue, ma ha un sapore unico nelle venature più profonde. Gemma era invece una rosa bianca, dal profumo che ti inebriava non appena la sfioravi e ti restava addosso per sempre. Se volete canto anch'io. Certo. Ah, scherza. Mangia una volta, chi manca la casa, chi vive da solo, chi prende a San Polo, chi gioca col fuoco, chi vive in Calabria, chi vive d'amore, chi ha fatto la guerra, chi prende il 60, chi arriva agli 80, chi muore al lavoro. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Chi fa cronologia, chi è morto in figlia, o dice la sua, chi ha solo la sua, chi è nato leone, chi grida all'anno, chi ha del profumo, chi ha fatto la squadra, chi scrive sul mare, chi reagisce il destino, chi ha perso, chi ha vinto, chi manda la sua, chi muore la mia, chi cambia la parte, felice e contento, chi gioca il suo padre, chi è tutto solito. Sono migliori di ciò che passa, chi ama la sera, è caso mio, è stato buttato, chi odia i terrori, chi canta per verso, chi tocca i pallori, chi fa il contadino, chi ha fatto la spia, chi è morto di figlia o di gelosia, chi vende la mano, chi vende amuleti, chi scrive poesie, chi tira le reti, chi mangia patate, chi vede il bicchiere, solo ogni tanto di tutte le sere. Na na na na na na na na na, ma ce lo è sempre di più, ma ce lo è sempre di più, ma ce lo è sempre più blu. Gianna sosteneva tesi e illusioni. Gianna, Gianna, Gianna prometteva pareti e fiumi. Gianna, Gianna aveva un coccodrillo ed un dottore. Gianna non perdeva neanche un minuto per fare l'amore. Ma la notte la festa è finita e viva la vita, la gente si sveste e comincia un mondo diverso, fatto di sesso. Difendeva il suo salario dall'inflazione. Gianna, Gianna, Gianna non credeva canzoni o buffo. Gianna aveva un fiuto eccezionale per il tartufo. La gente si sveste e comincia un mondo diverso, fatto di sesso, chi vivrà, vedrà. Ma dove vai? Vieni qua, ma che fai? Dove vai con chi ce l'hai? Vieni qua, ma che fai? Dove vai con chi ce l'hai? Di chi sei? Ma che vuoi? Dove vai con chi ce l'hai? Tutta là, vieni qua. Prende chi la dà, dove sei, dove stai, fatti sempre fatti tuoi, di chi sei, ma che vuoi. c'è mai. Tu non prendi se non dai, più di qua, ma che fai? Dove vai, con chi ce l'hai? Grazie a Daniel e Diego, veramente molto bravi, complimenti. Carmine voleva aggiungere qualcosa su Rino Gaetano. Sì, no, vedete, queste sono le due canzoni più note di Rino Gaetano. In realtà forse le più belle sono quelle meno note, come dicevano. Ha fatto 5 LP, che adesso sono usciti anche sotto forma di CD. E la cosa più sorprendente, la cosa che mi fa davvero rabbrividire ogni volta che ci penso, e lo racconto nel libro, quando compare per la prima volta Rino Gaetano, una notte, proprio a capocolonna con gli amici, lui sconosciuto con la chitarra tracolla e i capelli lunghi, no? E che lui canta in quell'occasione la sua prima canzone. La sua prima canzone. Ha scritto due canzoni che dovevano diventare disco, un 45 giri, se non che poi il disco fu inciso ma mai pubblicato, cioè questo primo disco fu inciso ma non pubblicato. La canzone di cui parlo, che gli faccio cantare la prima volta, narra di un giovane che ha un incidente e che viene portato in 5 ospedali diversi, ogni ospedale lo rifiuta per motivi, lui poi è anche surreale in questa canzone molto triste perché parla di un uomo che sta per morire, figuriamoci, però lui ironizza su questa cosa, sugli ospedali che lo rifiutano. Un ospedale lo rifiuta perché il vice capo faceva sciopero, erano anni di scioperi, un altro perché mancavano i posti letto, eccetera. 5 ospedali di Roma che lui cita i nomi di questi 5 ospedali. Sapete che quando è morto Rino Gaetano, è morto giovanissimo a 31 anni per un incidente d'auto, a 31 anni, era del 50, nell'81, 31 anni, 30 e mezzo perché era di ottobre, segno zodiacale Scorpione, non me ne frega niente, però insomma, era, no, perché ho citato anche la data di nascita di Rino Gaetano. Lui fa questo incidente e lo trasportano in un ospedale dove non potevano fargli niente, dovevano operarlo al cervello, e cominciano a telefonare agli stessi ospedali che lui aveva citato in questa prima canzone, e tutti lo rifiutano, fino a quando passano delle ore e lui muore. Quindi, cioè, voglio dire, nella prima canzone, adesso non lo so cosa c'è, forse è un caso, no? Però a me come scrittore questa cosa mi ha molto affascinato e allo stesso tempo fatto rabbrividire, come ho detto, ho voluto raccontare questa parabola che nasce questa notte a capocolonna molto romantica in cui lui canta questa canzone. Poi, per quanto riguarda Rino Gaetano, finisce proprio con la sua morte avvenuta nello stesso modo in cui lui aveva previsto e addirittura cantato, no? Ecco, se il primo motto è che la vita è comunque bella, l'altro motto che possiamo estrapolare dal tuo romanzo è quello che dice il padre di Nicola a Nicola. Nicola è un aspirante centometrista e il padre dice: devi sempre mettercela tutta nello sport e nella vita. E con i 100 metri entra in scena un altro eroe, diciamo così, Pietro Mennea. Sì, io, insomma, ho mischiato, ho fatto un minestrone. Personaggi reali e personaggi inventati. Mennea in realtà ha nel libro la stessa funzione che ha Lucio Battisti, cioè è visto come un personaggio mitico, diciamo è il mito di Nicola, e quindi compare in qualche scena ma non parla, cioè non è un vero personaggio in carne ed ossa come Rino Gaetano. E in realtà sono contento di questa domanda perché mi permette di dire un'altra cosa, cioè che questo è un romanzo sui talenti, sul talento, e da qui il valore forse pedagogico che davi tu al libro all'inizio della serata, no? E sui talenti. Quindi c'è Nicola che ha il talento della velocità, scopre che è veloce, lo scopre il padre, che era stato un ex calciatore di quelli che giocano magari in Serie D, in Serie C, ma non fanno mai successo, no? Anche il padre, quindi il talento. Certo. Però scopre la velocità del figlio un giorno, e allora decide di puntare sul figlio, e il figlio non vede l'ora di dimostrare al padre il suo valore, quindi si allena come un pazzo due volte al giorno e raggiunge risultati sempre maggiori e vede come mito Mennea. Un altro talento, abbiamo detto Rino Gaetano, l'abbiamo parlato a lungo, del canto, della musica, Lucio Battisti, altro talento. Un talento è Anna, che scrive dei testi, scrive canzoni Anna, per questo tra l'altro manda Lucio Battisti con l'idea, con il sogno, perché è un sogno che Lucio Battisti prima o poi molli Mogol e faccia solo canzoni un po' veleitarie, sono testi che scrivevo io a quell'età, ho trovato i testi che scrivevo a 16 anni e li ho schiaffati nel libro per rendere più credibile la storia. Però, e qui siamo al punto, tutto questo talento da solo non serve a niente. Il talento non serve a niente, sembra dire il libro, sembra raccontare il libro. Senza il sacrificio, senza la caparbietà, senza la forza di volontà. Ecco. E in questo appunto Pietro Mennea è stato un esempio per tutti, no? È stato un gran testardo, uno che un bianco del sud Italia, tra l'altro magro rispetto a quello che deve essere un velocista, è riuscito a sconfiggere più volte questi grandi atleti americani, a diventare campione del mondo nei 200 metri, per questo io ho fatto diventare il mio campioncino dei 100 metri, perché sennò non sarebbe stato credibile, ed era così, però era un caparbio, uno che si allenava, dava tutto per gli allenamenti, per le gare, e ha dimostrato che il talento da solo lo avrebbe portato al massimo ad essere campione della Puglia, non il talento da solo. Invece con il sacrificio, la caparbietà, il credere nei sogni, ecco, credere in quello che la vita ci offre, è tutto un lavoro enorme che bisogna fare se si vogliono raggiungere dei risultati. Ecco, forse davvero questo mi piacerebbe che lo facessero i giovani, no? Che magari leggendo il libro trovassero piacere e capissero che senza i sacrifici non si arriva da nessuna parte. Io credo che, io non lo dico mai didascalicamente, c'è solo quella frase che ha detto lui che è un po' didascalica, però in un certo contesto, però lo racconto attraverso la storia questo. E, a volte poi però, anche se tu ti sacrifichi, hai il talento, succede quello che è successo a Rino Gaetano, no? C'è l'altra incognita della vita, però intanto molti risultati, anche Rino Gaetano che è vissuto pochissimo, però grazie alla sua caparbietà li ha raggiunti. Forse possiamo sentire anche qualcuno del pubblico, se avete qualche domanda da fare o su quello che è stato detto fino ad ora, o sul libro per chi l'ha letto, o su altri temi di cui abbiamo parlato. Sempre il momento più imbarazzante di tutte le... Sì, però... ma devo farlo? No, no, non devono, no, però non ecco, vedo già delle mani, però poi dico anche antipatico, il sì, moderatore, no. Ha parlato solo lui, è narcisista, invece democraticamente giro il microfono a voi. Prego. E vedo lì infatti... No, spenderei due parole sul capo che lei ha letto. Un personaggio che a me ha affascinato. Ecco. Sono d'accordo. Questo bellissimo rapporto con i ragazzi. Sì, io vi ho letto solo una piccola parte della storia di Capo Colò, che non sono così, sennò poi nessuno legge il libro e Mardi Gras mi dice, ma insomma, e quindi solo un pezzettino, perché poi la storia è molto breve su Capo Colò, ma effettivamente anche a me appassiona. A parte questa storia d'amore con... perché è un uomo che crede nell'amore eterno, pensate. Che crede davvero nell'amore eterno, che si possa amare magari una volta e per sempre nella vita. Io ammiro sempre le persone che la pensano così. Io non ci credo, però ammiro quelli che credono nel, e lo dimostrano con la loro vita. Ma a parte questo, a me questo personaggio sa perché piace, signore? Perché uno del nord che guarda il sud senza gli occhi del pregiudizio. E allora quando tu sei del nord e guardi il sud senza gli occhi del pregiudizio, ci vedi tante cose belle, tante cose positive. Lui addirittura ne vede così tante che decide di viverci nel sud, quindi è un'emigrazione alla rovescia, no? Un capovolgimento che a me piace fare nei romanzi, no? Quindi uno del nord che viene a vivere giù, non uno della Calabria che va a vivere in questo caso a Ferrara. E quindi rappresenta questo personaggio che io vedo nel nord, no? Vedo in tanti amici, in tante persone che io conosco, e quindi un personaggio positivo. Adesso qualcuno mi dice, ma chissà quanti invece hanno i pregiudizi, lo so, nei confronti del sud. Ma lasciatemi raccontare un personaggio invece che guarda il sud senza i pregiudizi, come questo capocolo. Quindi un personaggio ponte. Lui funge da ponte tra il nord e il sud. E questo a me piace molto. In qualche modo, stavo per dire, cioè, è una cosa che sto cercando anch'io di fare con molti miei libri, in cui faccio interagire quelli del nord con quelli del sud. Per scoprire alla fine che non siamo poi così diversi, no? Abbiamo nelle cose essenziali, nelle cose di fondo. Io vivo in Trentino, tra il Trentino, quindi non posso parlare dell'Alto Adige, che so che ci sono delle differenze, no? Guai a confondere. A confondere, infatti, però vedo tante cose in comune tra il Trentino e la Calabria, nel fatto che sono entrambe, vengono dalla civiltà contadina, e quindi è rimasto parecchio, poi il valore della famiglia, eccetera, eccetera. E però bisogna raccontarle anche queste vicinanze, queste cose che ci accomunano. Per cui il personaggio è reso, diciamo, misterioso, affascinante, per colpire, poi ha tutta una vita particolarissima delle cose che gli succedono, ma allo stesso tempo per me ha un grande valore affettivo perché funge da ponte, e credo che oggi manchino tanti ponti, e quindi bisogna costruirli e bisogna avvicinarci sempre di più. Altre domande? Eccolo. Io non ho letto il libro, però sono curioso di una cosa. Cioè, il Gaetano lo metti proprio come protagonista, ma tutte le cose che scrivi su Gaetano sono... Bella. Cioè, lei, non so, lette, sentite, l'hai conosciuto, non so, hai... E poi allora, l'ha preso anche la famiglia, se l'ha letto. Se... Quello non lo voglio sapere, cioè, non lo so. Già un po' storia. Non lo so, no. Non lo voglio nemmeno sapere, perché ho conosciuto la sorella. No, è successo questo. Io, come dicevo prima, ma davvero lo faccio in tutti i libri, no? Non è che avessi intenzione di raccontare la storia di Rino Gaetano. Tutto un tratto davvero mi è comparso Rino Gaetano. Io non lo conoscevo. No, è comparso nel libro. Crotonese, negli anni 70, frequentavo Crotone in quegli anni. E in quegli anni anch'io ero a Crotone. Però non l'ho mai visto, io personalmente. Ho cominciato a sentire parlare di Rino Gaetano quando ha avuto successo con Gianna, che ha venduto 800.000 copie, quindi è stato 15 settimane, primo posto nella hit parade dell'epoca. No, tu non ti ricordi quando c'era Elio Tazzi. Vi ricordate, lui certo. Si ricorda. Insomma, ha avuto un grande successo, ho cominciato a interessarmi anch'io, ma già non vivevo più a Crotone. Però in quegli anni, gli anni in cui io vivevo a Crotone, studiavo a Crotone, scusate, questo non l'ho detto, intanto questo è il mio romanzo più autobiografico, perché io studiavo a Crotone come Anna, questa ragazza che si innamora di Nicola, perché va a vivere nella casa di Nicola, che ha una pensione, la madre ha una pensioncina per studenti che vengono da fuori, come ho fatto io. Io dal mio paese sono andato a Crotone, a 50 km di distanza, a studiare. E ogni due settimane andavo a casa, tornavo e facevo due ore di pullman, che è un paese di montagna, insomma. E quindi quegli anni io stavo a Crotone, ho respirato le stesse atmosfere che ha respirato, la stessa aria, stavo per dire, che ha respirato Rino Gaetani. Allora, il personaggio quindi era già credibile, perché le cose che vede sono le cose che ho visto anch'io, già credibili. Però ovviamente non mi sono limitato a questo. Ho cominciato a interessarmi, a leggere tutto, intanto a sentire, ad acquistare tutte le sue canzoni, no? E poi a leggere tutti i libri, ce ne sono di pessimi su Rino Gaetano, nel senso che non raccontano niente, e ce n'è uno o due veramente belli. E poi, sul più bello, quando stavo per finire, non mi esce la fiction in televisione che mi ha fatto, dico, mi ha bruciato l'idea, perché io ho capito la grandezza del personaggio, dico, adesso ci faccio, sto finendo questo romanzo. Rino Gaetano diventava sempre più importante nel libro, dico, esce questo libro, parla finalmente, per fortuna mia, non di Rino Gaetano e della famiglia, hanno fatto una vera fiction, hanno cambiato la vita, sì, di Rino Gaetano. È un film bruttissimo. Cioè praticamente è rimasto solo, intanto il l'attore è bravissimo, questo sì, che gli assomiglia e che sapeva cantare, però poi le canzoni sono rimaste, e il successo come cantante, diciamo la parabola come cantante, ma per il resto l'hanno fatto diventare drogato, ubriacone, uno che aveva un rapporto pessimo, pessimo con il padre, litigava continuamente, il padre era una vera carogna, che poverino è morto, anche per rispetto non bisognava farlo vedere così, e lui un irrequieto, in realtà è stato irrequieto, ma non in quella maniera poco un autodistruttivo, no? C'è un personaggio da anni 70, ma di quelli che si vogliono distruggere, e in fondo fanno capire che l'incidente l'ha avuto perché si era ubriacato, cioè, lui beveva molto, però non si ubriacava, reggeva bene l'alcol, e soprattutto, da quello che so io, non si drogava, no? Non so adesso se avesse fumato qualche spinello come molti dell'epoca, però non era un drogato, insomma. E poi gli fanno vivere una storia d'amore molto banale tra due donne, lui che non sa scegliere tra l'una e l'altra, tutte e due però delle donne, mentre nella realtà lui aveva una ragazza, una studentessa con cui si doveva sposare, e aspettava che lei si laureasse, avevano comprato la casa e doveva sposarsi, quindi altro che due donne, avrà avuto anche lui tante donne, ma voglio dire, anche lui, nel senso, no? Cioè, aveva uscito così, come molte persone dell'epoca, no? Però non era quello il problema. E secondo me hanno rovinato l'immagine, dando però nello stesso tempo una grande popolarità a Rino Gaetano. Questo sì, cioè, devo ammettere che se un personaggio di questo calibro passa in televisione, diventa immediatamente popolare. Adesso è molto più popolare di prima, di novità, grazie a quella fiction che è stata vista da 8 milioni, 9 milioni di persone. Però tutti questi 8, 9 milioni che ahimè non comprano il mio libro non sanno qual è la vera storia di novità, che a mio avviso è molto più affascinante di quella banale storia di uno che si droga, cioè del cantante, no? Solito cantante maledetto, no? Maledetto che si deve drogare se no non riesce a essere creativo, e credetemi, se uno è fatto, se si droga, se beve, non scrive, non sa scrivere musica, non sa... è inutile. E vabbè, a parte qualche eccezione, infatti abbiamo visto come è andata a finire, e poi tutta un'altra generazione, e infatti quella sì che è gioventù bruciata, no? E lo era anche prima in America, la gioventù bruciata, però voglio dire, Rino Gaetano le cose che ha fatto le ha fatte a mente calda, non certo a mente sfatta dalla droga, ecco, almeno. E allora io, oltre a aver letto questi libri, ho chiesto a tutti quelli che l'avevano conosciuta a Crotone, a molte persone, amici suoi, e ho recuperato anche degli aneddoti che riporto nel libro. E sul più bello, un giorno ero al mio paese, a Sant'Antonio, alla paese di Sant'Antonio, 2 anni fa, stavo per chiudere il libro, avevo qualche dubbio che non riuscivo. Per esempio, una volta Rino Gaetano ha fatto un concerto a Crotone, era già famoso, e un gruppo di estremisti di sinistra, lui era più impegnato di Lucio Battisti, no, politicamente, e lo ha preso a fischiato, gli hanno buttato bottiglie sul palco, insomma una cosa bruttissima, per lui ci è rimasto proprio male. Allora ho ricostruito questa storia, stavo ricostruendo, uno mi diceva una cosa, uno un'altra, e un giorno a Sant'Antonio, arrivo al mio paese dopo tanti anni che non andavo a Sant'Antonio, e suonava per la festa la Rino Gaetano Band. È stato davvero, cioè, vedete come è tutto collegato, no? E in piazza chi ti vedo una signora che assomiglia un po' anche a Rino Gaetano, era la sorella di Rino Gaetano. Allora l'ho abbordata e mi sono fatto raccontare tante cose, tant'è che l'ho ringraziata alla fine del libro, perché mi ha raccontato alcune cose inedite che non avevo trovato nel libro. Quindi è assolutamente autentico, non c'è nulla di inventato, se non la cosa che forse è più vera di tutti, l'anima. Nel senso che io faccio dire a Rino una cosa in cui credo fermamente, e spero che tu, che sei siciliano e vivi qua, condividi. Faccio dire a Rino Gaetano che se tu nasci in un posto, quel posto ti resta dentro per sempre. Tu puoi viverci, puoi vivere lontano da quel posto per anni e anni, lontano 1000 miglia, ma quel posto ti resta dentro. E io credo che a Rino Gaetano la Calabria fosse rimasta dentro. Questo è un mio pensiero, però credo che anche lui avesse lo stesso pensiero, in questo senso autentico. Avete altre domande, altre curiosità, qualcosa sul mi fanno segno di dare la parola a Elisa, che è una mia studentessa che ha letto il mio romanzo. Io non volevo costringerla, ma lei giustamente stamattina in classe mi ha fatto un'osservazione, ed è uno degli elementi strutturali del romanzo, questa costruzione temporale, prego. E Carmine sarà ben contento di risponderti, Elisa, prego. In questo modo non le sembra di togliere la sospensa al lettore? No, allora spieghiamo questo a chi non ha letto il libro. Il romanzo comincia nel passato, negli anni 70, quando il protagonista ha 14 anni e conosce Anna, proprio il giorno in cui conosce Anna, e poi il capitolo successivo c'è scritto 9 settembre ed è la data della morte di Lucio Battisti. Allora, vedi lo stesso protagonista, prima ragazzino, tra l'altro lo rappresento pieno di riccioli neri, come Battisti, perché Nicola, come Carmine Abate, ha i capelli come Lucio Battisti, no? Riccioli, tutti ricci così. Allora, seconda scena, tutto un tratto vedi quest'uomo quasi calvo, quindi non sono proprio io, no? Cioè, vedi, lo vedi però quarantenne, 39enne. Ah, io direi che non toglie la suspense questo procedimento, perché in fondo la suspense la levo alle cose non necessarie, ma intanto nel momento in cui subentra il presente, no? Diciamo il tempo presente, il lettore entra in un'altra storia che probabilmente è altrettanto avvincente, perché non si sa se Nicola quando muore Lucio Battisti vuole cercare Anna, vuole ritrovarla, non la vede da 14 anni, allora tu non sai se la trova E quindi i capitoli al presente in realtà non sono altro che la ricerca che Nicola fa di Anna e nello stesso tempo il recupero del passato, di tutto questo passato, la ricostruzione del passato. Quindi il tempo importante è il presente. Del resto, guarda, io ti confesso, non so cosa ne pensa Giovanni su questo, io, a me piace narrare il presente. Cioè, tutto il passato, la memoria, ha un senso solo se illumina il presente. E Nicola recupera questo passato mitico, in qualche modo, bellissimo, per capirci di più al presente. Recuperando il passato, per esempio, cerca di capire perché Anna se n'è andata. E ricostruendo, tassello dopo tassello, capitolo dopo capitolo, a un certo punto lo capisce. Quando lo capisce è fatta, no? Adesso non diciamo... No. Comunque questa storia, i due piani temporali, io credo che servano invece a creare più suspense. Tolgono una parte, è chiaro, perché tu già dici che questo ha perduto i capelli. Allora, non lo fai vedere piano piano mentre perde i capelli. Primo capitolo, piano di capelli, secondo capitolo, è 40 anni, no? Però poi piano piano ricostruisci. Dal che capiamo che insomma i capelli ci tenevi. Ebbene. Vabbè, io direi a questo punto, se eccolo, prego. No, allora non può fare la domanda. No, dai, Edi. La memoria è pessima, ma la zona di Crotone, qui sud, qui, era famosa nel 68 per altri due luoghi. Uno è l'isola di Capo Rizzuto, per un campeggio. Sì, sì. Infatti. Che è durato anche fino agli anni 80. C'era un paese, un contadino, dove stava una rivolta... Melissa. È vero. Che sembrava... Adesso mi faccio pubblicità un libro. No, io ho scritto un libro sui morti di Melissa, che è la moto di Scanderbeg, in cui ho recuperato quelle quattro pagine, tra l'altro proprio descrivo proprio come la polizia uccide questi contadini, e probabilmente quelle sono le mie, lo dico perché tanto ho scritto tantissime pagine, però le reputo le mie pagine più sofferte, forse migliori dal punto di vista narrativo. Se io dovessi leggere, invece di leggere quelle pagine, probabilmente mi commuoverei rispetto a quelle che ho letto stasera. E l'altro posto invece si trova in questo romanzo, Isola Capo Rizzuti, soprattutto, vedete, parlo anche di un luogo che si chiama Le Castella, dove c'è un castello dentro l'acqua. Ma dove lo trovate? Dovete andare chissà dove, ma non c'è, solo là. E c'è una piccola lingua, così piccolissima, di sabbia, che ti consente di... Naturalmente la signora Calabrese, spero che... No, perché poi magari noi della Calabresi, quelli di Lamezia, dall'alto sul Tirreno, proprio non conoscono per niente lo Ionio e viceversa. Sui luoghi del romanzo è una bella cosa. Sì, soddisfatto Edi della risposta, sì. Allora, io direi a questo punto ci avviamo a concludere dando voce e chitarra e microfono a due giovani che, come no, la musica mantiene giovani, Renato e Maurizio, che ci canteranno La collina dei ciliegie, Vendo casa. Artisti veramente. Sì. Grazie per le tardi. No, è lo spirito giovane, si parlava di amore eterno, lo spirito giovane è quello che è veramente eterno, no, e la musica è fondamentale. Ma quanti musicisti ci sono? Hai visto? Io mi ero illuso che ci fosse tanto pubblico. Come ti eri illuso? Guarda che no, non ti invitiamo più la prossima volta. Vabbè. Va bene, dopo ci salutiamo dopo questi due brani. Voi che ci spostiamo dalla parte sì. A sentire. Tanto sgroppiamo di qua. Scusi. Dai, mi dice se grazie. Aspetta che ci stiamo il microfono. Tu sei qua? questo è attaccato il prato? Sì, sì, esatto, sì, esatto. Sì, non, non facciamo vendo casa, cos'è? Ah no? No. Così mi avevano detto. Ma sì, ma perché abbiamo pensato? Magari la facciamo, però prima... Fate prima... voi. Noi siamo qua. Non abbiamo pregiudizi, appunto. Sì. Ti stai sbagliando, che hai visto non è... Non è Francesca. Sempre a casa che aspetta me, non è Francesca. Se c'era un uomo poi, non può essere lei. Francesca non ha mai chiesto di più, chi sta sbagliando son certo sei tu. Francesca non ha mai chiesto di più perché vive per me. Come quell'altra è bionda però non è Francesca. Era vestita di rosso lo so. No, non può essere lei. Francesca non ha mai chiesto di più, chi sta sbagliando son certo sei tu. Francesca non ha mai chiesto di più perché lei vive per me. Allora, facciamo una collina dei ciliegi. Alza un po' il numero di chitarra. No, no, alza lui perché ne basso lui, sai? E se davvero tu vuoi vivere una vita luminosa e più fragrante, cancella col coraggio quella supplica dagli occhi. Troppo spesso la saggezza è solamente la prudenza più stagnante, e quasi sempre dietro la collina è il sole. Ma perché tu non vuoi spaziare con... e non ancora con nessuno. Andando sopra boschi e braccia tese, beh, passiva, la cantate voi due, va bene. No, pensiero e parole. Sì, c'è una voce femminile, o oh, molto alta. Vedo caso. L'erba è alta, ormai lo so, e dovrei potare dirmelo, quanta polvere c'è. Dentro casa tutto muove. La cucina, guarda che cos'è. Quanti piatti sporchi da lavare. E mia madre sempre qui. E ripete, non lasciate andare. E la gente intorno a me, come un cupo vuole guardare. Ma di strano cosa c'è? Fiori al vecchio ormai, quello strappo da cucire, ho la barra da come tu vuoi, e la voglia di morire. La tua bocca da baciare e la fiamma salta ancora dentro me. Questa casa è tutta da bruciare. Questa casa è tutta da bruciare. I musicisti di questa sera. Posso? Allora direi veramente una splendida serata e ringrazio intanto Carmine Abate per il romanzo che ha scritto, che ci ha dato questa bellissima opportunità. Ringrazio tutti i ragazzi dei centri giovanili, anche quelli meno giovanili. Grazie. Che hanno suonato, e spero appunto, come dicevo prima, che possa essere un'occasione da ripetere, perché penso che sia stata un'ottima, soprattutto una serata emozionante. Ringrazio quindi l'Ufficio Giovani, la Biblioteca Provinciale Claudio Augusta, l'UPA dell'Associazione Culturale BZ 1999, i libri di Carmine Abate sono pronti lì per essere autografati. Grazie.